È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Ciao, benvenuti agli spacciaserie. L'ambulanza che sta venendo a prendere. Siamo agli spacciaserie. Sì, siamo eccoci. Agli spacciaserie. Non te ne sei nemmeno accorto. No, non stato... hai visto che cambiava tutta la scenografia qui. Ero dallo studio di Milano prima, quindi quando trasmettevo. Adesso sei quello di... col teletrasporto. Col teletrasporto, insomma, visto che stiamo parlando di serie TV. Teletrasporto Star mi Trek. Spocchi. Long life and prosperity. Esatto. Che vuol dire andate... Cioè io non lo sapevo. Sì, più o meno. Fondamentalmente è quello. Io non lo sapevo. Cosa? Questa cosa qui, no. Long life and prosperity. Però siccome abbiamo... ben bruschette. È bruschette. And prostata. Long life and long prostata. Lunga vita alla... No, ma siccome abbiamo fatto una puntata su Star Trek... Avete fatto la puntata su Star Trek e non avete fatto ancora la puntata su Scrubs. Fate veramente, io me ne vado. Ora, sai cosa facciamo in questa puntata? No, dimmi, perché io poi facciamo detto, fammi la spalla, hanno detto Piero. Io sono arrivato qua e ho detto ciao Tommy. E non c'era nemmeno Tommy. E Tommy non c'è perché è un uomo viaggio. Solo al comando. Sì, è in macchina che sta guidando. Ma tu in macchina? Sì, poteva andato... ascoltarci. Ah, già, non siamo una radioserie, no? Purtroppo no. E quindi, siccome sono passate, siccome non c'era Tommaso, mi dispiaceva fargli perdere una serie TV importante, giusto, magari giusto. Così. Che sarà? Tipo? Tipo, e alla fine arriva mamma, che è bruttissimo dirlo così, sì. Perché in inglese suona meglio che... How I Met Your Mother. Oh. Te lo dico anche all'americana. E quindi, cioè, ma tu sai chi verrà a parlarci di questa cosa? So qui? Che c'è un ragazzo che conosco, si chiama Francesco. Uh-huh. Sì. Cioè, se l'è mangiato in un mese tipo 6 serie TV. Sì, infatti spero si ricordi tu, perché io l'ho mangiata. E poi un altro che non sentite anni. Spesso. Ah no? No, non no. È della radio. Non è della radio, no. Non so chi sia. Ma... Ah. Ma comunque, sai di che si indizio. Parla? No. Stasera si fa il peggio di, il peggio barra il meglio, ma siccome del meglio non c'è niente. Mi piacciono un sacco i peggio di, tipo le sviste, quelle cose là, tipo gli scherzi inutili ma le scherzi a parte. Ecco, noi più o meno, siccome non abbiamo una puntata che è venuta bene, mangiamo solo il peggio. No, quindi ma quello... ci sarà anche la puntata su Happy Gay? È la puntata numero perché io me le sono scritte tutte. Grande, Piero. Abbiamo... adesso che è stata una bellissima puntata, avete avuto un casino di ascolti, sì. Secondo me per l'ospite che avevate. Abbiamo avuto che poi un è lo stesso ascolti. Di quello che dico meglio il madre. Ah sì? Sarà lo stesso, mi sa. Ah sì? Allora, poi dopo c'è uno spezzone di lui che sì? Parla. Ma sono, cioè, sono diversi, se non sbaglio. Allora, diversi. Se ne sono diversi. Guarda, però, per cominciare, io ti farei sentire... Dimmi tutto. L'inizio della prima puntata. Vai, che eravate impacciatissimi, immagino. Mamma mia, guarda, mi vergogno ancora. Cioè, non so se ho il coraggio di sentirmi. No, però. Io sì, voglio ridere. Sì, tu non c'eri, bravo. Ma quanto dura? Dura tantissimo. Dura tantissimo. Buon ascolto a coloro che ce la faranno. Ringraziamo per la sigla Marco, che è qui presente. Grazie Marco. Grazie Marco. Grazie Marco. La voce fuori dal coro è sempre Mario Assunta. Quindi, adesso. Prego. Il prego era di quello. Era sempre di Marco. Volevamo quindi un attimo cominciare dando un po' di gergo tecnico, perché poi si andrà a parlare appunto di serie televisive e per evitare problemi di comprensione. Diciamo, si capisce tutto, è facilissimo. Tipo serie, cos'è una che serie? Cos'è una serie? Una serie è una ma storia. Lo sanno. Ma lo sanno tutti, lo sanno. Che cos'è? C'è un episodio. Cos'è l'episodio? Te lo chiedo io, che cos'è un episodio? Una puntata, cos'è la puntata? Cioè bisogno di spiegare, cioè, veramente... Invece, quello che forse è più non importante, tutti sanno. La stagione. Cioè, potrebbero subito pensare a Vivaldi, no? Vivaldi, no, non ascoltiamo sono Vivaldi. Le stagioni. Oppure la pizza. Non è la, nemmeno la pizza. Allora, di cosa parliamo quando diciamo stagioni? Prego. Di stagione parliamo di un gruppo di puntate, di solito circa una ventina, poi dipende da serie a serie. Ci sono quelle serie che fanno massimo 13 episodi. Che? Perché 13? Oggi ne presenteremo una che come prima stagione propone soltanto 6 episodi. Cioè, quindi... io anche qui non lo so, però va bene. Andiamo ora l'1, però. Vabbè, sono episodi seri. Sì, è serio, è serio. Quindi una stagione è un gruppo di episodi con una storia ben definita. Ecco, parliamo di storia. Qui abbiamo quindi la definizione invece di trama orizzontale e trama verticale, che lei sa benissimo, vero? Okay. La trama verticale è chiaramente... qui fanno strani gesti. Serio, in radio serio. Poi dopo. Allora, la trama verticale è la trama del singolo episodio, cioè della singola puntata. Aha. E poi? Mentre la trama orizzontale è quella che segue tutta la serie. Mi faccia un esempio. Facciamo Grey's Anatomy, no? Che tanto vedono più o meno tutti, no? Okay. Tipo il caso della settimana, cioè dell'episodio, appunto quello che cioè quella che si deve rifare il culo, no? Per esempio. Ad esempio, giusto, cioè, scusate, ma si può dire in radio, no? No, non si può dire. Vabbè. Ok. Invece diciamo la trama di Beautiful che c'è sotto, quella è quella orizzontale, quella che conduce tutti gli episodi, che ti fa appassionare, seguire le storie, le trame, le vicende dei personaggi. Ok, perfetto. Bene. Credo a questo punto che ci siamo. No, ci manca una cosa, ci abbiamo lo spoiler. Cos'è lo spoiler? Ah, lo spoiler è quell'informazione che qualcuno non vorrebbe sapere. Ci sono amici che mi spoilerebbero per quando ho rischiato di spoilerare cose che voi umani. Informazioni che noi già sappiamo sull'ultima, ad esempio, puntata, o su una puntata in generale che gli altri non hanno visto. Io comunque ho questa teoria che la colpa è loro, che non si sono messi in pari, quindi io posso dire tutto quello che so, loro devono studiare, devono impegnarsi, e quindi devono sapere tutto. Insomma. No, io non avrei più ascoltato dopo i primi. Dai, ma perché? No, ma sto scherzando, eravate bellissimi. Bellissimi è una parola grossa. Bellissimi alla radio. Ah, ecco. I bellissimi alla radio. Cos'è? No, niente, questa è la base, non ti preoccupare, è solo per mettere qualcosa sotto per non addormentare. Cosa metti sotto tu? Insomma, comunque sotto i denti. Giusto. Dicevamo. Sì, no, è carino. Dai. No, siete migliorati, rispetto all'inizio. Però eravamo molto gasati, visto? Sì, c'era un casino della malora. Sì, perché venivano, c'era ancora Marco che arrivava in orario. Marco che arrivava. E poi non se ne andava subito, restava anche un po', faceva compagnia. Tra l'altro, la prima puntata, Marco non faceva monoserie. Cioè, Marco era venuto a dare sostegno morale. Sì, perché la prima settimana Marco era il... aggiustava i pippoli, muoveva cose. Sì. Facevamo l'amore col mio. Ricordo, la prima puntata c'era Roberto in regia. Facevamo tutto noi uguale, però lui stava lì, guardava, supervisionava. Tra l'altro, notizione, lo sai che mercoledì prossimo inizia Cinemando. Non era giovedì. Hanno cambiato orario. Palinsesto cambia sempre, è in continuo movimento. Io inizia a che dopo, ora? Alle 5? Nel pomeriggio. Mi sembra di sì. Cioè era un programma che doveva partire in notturna il giovedì. Ma poi siccome hanno preso a bordo Cosimo. Cosimo purtroppo va a lavorare la mattina. Uh-huh. E quindi... Insomma, rompe le palle, vai. L'hai detto tu. E quindi diciamo... In senso affettuoso. Le coccola. Ho capito, quindi mercoledì inizia Cinemando. Che non è più Cinequando, si sa. Si sa, è Cinemando adesso. In bocca al lupo. In bocca al lupo a Cinemando. A Cinemando. Ma siccome noi stiamo facendo troppe, vuoi troppe mandare chiacchiere, le parole? Stiamo facendo veramente troppe chiacchiere. Troppe parole. Parole. Andiamo un pezzo e poi ci ritroviamo a parlare di serie TV e quant'altro. Va bene. Ok, ce la fai, Piero. Ce la posso fare. Se, guarda con quale superficialità. Ancora siamo classici. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta. Parole soltanto parole, parole tra loro. Che cosa sei? Che cosa sei? Io sono Piero. Caramelle non ne voglio più. Solo parole sei da. C'hai la carie. C'ho la carie. Che bello sentire mine Alberto Wolf. Esatto, lui. Comunque, dicevi di musica. Ma no, c'è un pezzo sotto che è veramente lagnosissimo. Beh, tu non capisci l'arte. Questo l'hai preso da sottobosco. Esatto. Vedi che sempre. Devo consigliare il una grosso cosa pallone. Di Breakfast Jumpers. È uscita la compilation che si chiama Goodbye Icy Winter. Che è veramente bella. L'ho ascoltata tra stanotte e stamattina. Credo l'abbia fatta proprio Davide. L'ha fatta veramente lui. Il dominio del sottobosco. Che non è il locale, ma. L'uomo ancora più figo. Non ci sono mai andato al locale. Non posso fare pubblicità negativa. Via, su. Okay. E quindi, no, è bella, una bellissima compilation. Fatela, ascoltate, andate su Breakfast Jumpers. E scaricatela. E scaricatela perché è gratis, è free. Ora, vediamo se eri attento. Nella seconda puntata degli spacciaserie, di cosa abbiamo parlato? Di Supercar. L'hai letto adesso. È di un'altra cosa. È di Knight Rider, cioè Cavaliere Danzante. Il Cavaliere Bianco e il Cavaliere Nero. Cos'è The Knight Rider? E il cavaliere che cavalca. Insomma, era la versione nuova di Supercar. Ah, esiste una versione nuova di Supercar? Sì. Hanno avuto molto oltraggio. Sì, questo... era abbastanza truzza, se devo dire. Ma perché neanche Supercar però, non fosse. Però a Tommaso piaceva. Ho capito, quindi... Vabbè, e... Tommaso piacciono troppe tele TV. Anche a me. Sì, ma tu almeno hai un po' più di gusto quando le scegli. Non è vero, anche Tommaso ha gusti diversi. Tipo, io tutte quelle fantascientifiche magari non le guardo, lui sì. Ma. Cioè, lui ha... Non avete ancora fatto la puntata su Lost. Non ascoltate più, gli spiace se... La colpa di chi è, secondo te, se non abbiamo fatto la puntata su Lost? Vabbè, trovate un altro ospite. Ne abbiamo trovati tre, ma volevamo fare la puntata figa con tre ospiti. Ah, che non c'entrano qui? Vabbè, uno è visto su Skype, uno qua in trasmissione, l'altro su Skype, oppure no? Non si poteva fare. E chi erano questi tre ospiti? Una... Allora, questo è... Vediamo se va. Spoiler. Ecco, è spoiler. Non è spoiler. L'ospite non è spoiler. Che spoiler è l'ospite? No, allora, uno era Marco. Che però chiaramente non ce la farà mai. Cioè, io ci ho perso le speranze. Però vabbè. No, ma che... Magari una volta lo convinco. Sì, lo dico tre settimane prima. Dico, c'è la puntata, magari viene. Giusto. Poi c'è la ragazza di Claudio. Addirittura. Sì. Che è Veronica, no? Sì, Veronica. Veronica. Io mi sono anche ricordato il nome. Per chi non sa, Claudio è quello che ha fatto la puntata su Star Trek. E poi c'è la decimetta e poi è conduzione familiare, se non l'avete capito. No, poi se qualcuno in chat si vuole proporre per venire a... Però sì, dovete essere preparati, perché io mi ricordo quello di Happy Days, era preparatissimo sulla serie TV, Sì? Sì. Chi? Quello di Happy Days. Quello lì? Era veramente... Ma Lost l'ha visto? No, Lost non l'ha visto. Però può venire uguale, dici? No, su Lost no, perché più che altro non lo conosce bene, quindi... Per non dire vaccate su Lost, che è molto facile. Meglio che non lo chiamiamo per quella puntata, se no poi sta sempre qua. Esatto. No, più che altro quello di... Cioè, io so che questo ragazzo era fissato con Lost in Berlusconi, che era quella parodia o scena che era nata sul web. Perché... Era carina. No, che era scena nel senso buono, no? E di questi sceneggiatori chiamati a costruire una serie TV su Silvio Berlusconi e sulle sue vicende amorose. Non c'era ancora Ruby, ma il puttaniere che era in lui era abbastanza... Era già venuto fuori. Era abbastanza cavalcante, come si dice. E quindi c'erano questi sceneggiatori che dovevano cercare di tirarlo fuori dai guai. Ma era quasi impossibile, infatti primo drogati. Hanno fatto due web puntate e poi è morta nel nulla questa cosa. Strano. Invece la seconda puntata, diciamo, Supercar, Supercazzo, come dicono quelli di Bellino del Cuculo. E Night Rider. E cosa mi ci fai sentire? Ora, Tommaso, perché Tommaso è presente tra di noi con la selezione dei pezzi che ha fatto. Tommaso è sempre con noi. È sempre con noi, col cuore, con la mente, con i pezzi. Ha selezionato l'inizio della seconda puntata. Io vai. Non so perché l'ha selezionata. Sentiamo, surprise. Però sentiamo. Surprise che non arriva, eccola. Eccola, surprise. Oh, siamo in onda. Prova, siamo in onda. Siamo in onda, Piero, siamo in onda. Noi non entra nessuno. E infatti c'è proprio entrate da radio serissime qui. Sì. Bah. Allora, è passata una settimana. E noi siamo ancora qui. L'amministrazione non ci ha ancora cacciato. Ci ha confermato il contratto da 0 euro, cioè. Per un'altra settimana. Sì, per sì. Per un'altra ora. Ah. Ok, questo era il direttore generale La Massimo. Voce del capo. C'era lui. Non che... mi fa paura. Tremate, gente. Bravi! Scemo, ci doveva stare. Uomo che ha appena mangiato, ovvero sia Paccio, giusto? Paccio ha mangiato, Paccio è sazio. Ok. Quindi ora partiamo con la sigla, giusto? Possiamo partire e cominciare una nuova puntata. Abbiamo la sigla e andiamo con la sigla. Ma che belli che eravate. C'era anche il presidente, che stasera sì. Non c'è. Nessuno ti viene a portare cibo. Io spero stia bene il presidente, perché l'ultima volta che l'ho visto aveva degli occhi rossi. Io so che sabato notte non aveva dormito. Pure. Vabbè, sì, quello sì lo so. Ah, oltre al non dormire, sì, oltre al non dormire aveva la congiuntive e aveva anche mal di gola forte. Stava morendo. Quindi. Stava morendo. Sì, stava era vicino tavolo, alla morte. Avvolto in uno sciarpone. Quella è la sinusite che continua a tartassare. Oltre a tutto ciò che finisce in ite lo colpisce. Povero Leo. Congiuntivite, sinusite. Siamo con te. Presidente, siamo con te. Non temere, presidente. Bellino, no, divertente quel pezzo. No, per carità. E ora ti vorrei fare ascoltare un altro pezzo. Vai. che si intitola Cose che non si vedono alla radio. Io non so cosa sarà. Non lo so, però sembra divertente. È sempre Tommaso che fa queste selezioni. Vediamo. Il sequel non funziona mai. Il sequel il bello del sequel è che ha gli effetti speciali che fanno veramente, cioè sono bellissimi. La fanno veramente, già stavo dicendo schifo. No, fanno veramente. Non c'è un appellativo bello da mettersi dopo fanno veramente. Infatti, perché hai usato fanno veramente? Ora ti sei intrippato su sta cosa, non ne usciamo più. Non ne usciremo. Come ne usciremo? Come? Facendovi ascoltare l'effetto speciale. Sì, c'è solo l'audio delle cose che non si vedono alla radio, come tutto il re. Facendovi ascoltare. Ah, tra l'altro, a proposito di cose che non si vedono. Cosa? Piero si è tagliato i capelli. Vabbè, la volta scorsa l'ha promesso. Detto. Spero allora, che vediate. Volta la abbiamo differenza. Detto, promettiamo di mandare la descrizione del programma alla direzione e l'abbiamo fatto. Promettiamo detto, che Piero ci aveva i capelli guardabili, c'avevo il fungo e li ho tagliati. Siamo gente che manteniamo le votateci. Vota gli spaccia serie alla Camera e al Senato. Foglio bianco, credo. Bene, dopo questa campagna elettorale. Dopo questa campagna elettorale, mandiamo e facciamo ascoltare un pezzo tratto dalla prima puntata, dal pilot, che voi sapete cos'è perché ci avete già ascoltato la scorsa puntata. Dal pilot di Knight Rider. Io l'avrei intitolato Cose che si votano alla radio, più che altro, che era molto spazio. Sì, no, era carina la cosa, no, per carità. Però cose che non si vedono. Cose che non si vedono alla radio, non ho ancora capito perché. Perché nemmeno perché l'hai detto, sinceramente. In quel momento. Però Tommaso era molto più spinto nella seconda. Sì, nella seconda prima era più energetico, come si dice. Si era caricato la timidezza. C'era sempre. Sì, no, però. Mandiamo un sono pezzo. Curioso di vedere Knight Rider a questo punto, perché sembra veramente una serie TV di quelle serie. Mamma mia, guarda. Una cosa Dimmi. Terribile. È passato tanto tempo. E con questa cosa qui manderei una canzone dei Torta. No, soprattutto che uno che non sa l'inglese direbbe ma chi sono i cake? No? E invece sono i cake, i cioè cake. La torta. Long time. Ma are sono indie, sono questo. Parlami di questi cake. Guarda, talk me about cake. Ti dico che questo brano, mm-hmm. questa canzona, come si direbbe in dialetto italianizzato, Questa canzone è tratta dall'ultimo episodio di una serie di cui abbiamo parlato, e mi devi dire in quale puntata, attenzione il quiz, in quale puntata abbiamo parlato di Shameless. Io lo so. È un'offesa, quindi non lo dico. Come un'offesa? Shameless sarai tu. Ma manda il pezzo, ma... I cacati. L'abbiamo parlato I cacatua. Nell'ottava puntata. Ignorante, non ci segui. I cacatua con Long Time. Va bene. It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time. Ok, mi passi la musica, magari ti fai annunciare il pezzo in maniera anche decente. I cake con a long time, anzi long time. Se andate su Radio Cicoso ve lo dice con più esattezza. Dalla chat, long time dei cake. È una canzoncina carina, niente male. Ascolterò i cake prossimamente. Bravo. No, dalla chat ci chiedevano: mandate un po' di musica di Scrubs, che è carina. Ma cara la mia Susie, no, anch'io la manderei la musica di Scrubs perché mi piace un sacco. Il problema è che loro, gli spacciaserie, hanno trattato di, che ne so, di Buffy, di Happy Days. Cioè, hanno fatto la puntata su Happy Days, hanno fatto la puntata su Single Father, che non so che meno è, e hanno fatto ancora la puntata su Scraps. Allora, il problema... Fate arrabbiare! The mother is... La madre? La madre è... Dimmi. L'ospite. We need allora, a guest. Allora, basta con gli scherzi. Sinceramente, io ero molto più preparato su Scraps che su Happy Days. Perché mi avete chiesto facciamo la puntata Happy Days? A questo punto sorge spontanea la domanda. Perché noi all'inizio avevamo una scaletta in testa che... proponeva anche delle serie classiche intervallate a serie nuove. E quindi in quel momento ci serviva la serie classica per eccellenza, che era Happy Days, e un esperto di quella serie lì. Hai giusto capito? Sì, ecco. Torna The Beautiful. E se non torna mandiamo un pezzettino della quarta puntata a questo punto, direi. Guarda, io prima, per ordine, per rispettare la volontà di Tommaso. Giusto, scusate, perché il morto si rispetta sempre. Il morto si rispetta sempre. Mandiamo prima un pezzo, il primo ospite, il primo chi è? Ospite, io lo so, tu lo sai, ma dai, come non lo sai chi è? No. È quello che è venuto prima di te. cioè di quello degli Happy Days. Che è il primo ospite? Ora te lo presento. Fammi sentire. Sono curioso, eh. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Basta, basta. Mi stoppo. Ok, siamo arrivati alla terza puntata di Spacciaserie. Non ci hanno ancora chiuso. Ma va bene. Questo già è qualcosa che veramente... Effettivamente qualcuno... Però Maria Assurda rompe le scatole quando il suo programma dice «Cinci, 3 secondi, devo andare in onda!» Siete voi che mi avete chiesto una collaborazione per questa puntata? Siccome parlavi dall'altro tono, vieni vicino al microfono. Cioè, ma io vi voglio un sacco bene. Stasera, tra l'altro, hanno fatto anche servizio catering di Spacciaserie. Ringrazio, bravissima. E li ringrazio, sono dei tesori. Okay. No, oh, leva sta lingua. Tutto rosso adesso, tutto comunque, rosso. Allora, hanno fatto anche servizio catering e quindi ovviamente, voglio dire, sono qui. Comunque facciamo poco casino. È vero, parliamo piano, c'è Giuseppe che dorme, non è uno scherzo, c'è Giuseppe che dorme. La mamma, la figlia della signora Cascetta. La mamma di Giuseppe. Comunque, detto questo, ragazzi, di che cosa dovete parlare oggi? No, allora, intanto partiamo con la sigla. Una cosa si parte. Vai, facciamo la sigla. Partiamo con la sigla. No, vai. Sì. Cioè, eccoci, insomma, cioè, sì. Stiamo cominciando, insomma. Tagliata malissimo. Quindi, allora, cosa succede oggi? Abbiamo l'ospite, la novità. È la prima volta che abbiamo un ospite. Cioè, vabbè, l'ospite, abbiamo Maria Assurda, cioè. E vabbè, sempre ospite, cioè, tu ce la volevi qui di solito. No, ce la rivorremo poi. Chi lo sa, guardiamo come va, poi nel caso riconfermiamo. E okay. Quindi, di cosa parliamo? Cioè, Maria Assurda, perché sta qui? Allora, Maria Assurda è qui perché ci viene a parlare di una serie a lei molto... cara. Cara. Tanto cara le fu questa serie. Sì, quest'erma serie. Senti, il fatto che io avevo 15 anni quando la protagonista aveva 15 anni e quando è uscita la prima serie non è una mia responsabilità, se tu invece ti facevi le seghe con World of Warcraft. Ma io facevi... World of Warcraft... cosa ti facevi? Ah, brutto porco, non no, me le avevi dette secondo. No, le tippe mentali, hai capito male. Ah, bene, okay. Parli vicino al microfono. Adesso sto parlando vicino al microfono. Ok, benissimo. Intanto salutiamo quel grand salutiamo uomo Paciu. Di Paciu. Ciao Paciu, ciao Paciu. Ok, bene. Allora, io direi che possiamo far introdurre. Ma diciamo qual è questa serie. A Maria Assurda, come, utilizzando come Maria sottofondo. Assunta, grazie. Maria Assunta, scusami. Utilizzando ma come sottofondo la sigla. Vai. Vediamo se i nostri ascoltatori arrivano a scoprire qual è. Vabbè, la diciamo anche noi. Era Buffy l'ammazza vampiri. Buffy. Tutti, Buffy tutti, barf- tutti in chat e a casa Buffy. Se lo ricorderanno che era Buffy l'ammazza vampiri. Che una serie TV su un... Su un coso, si chiamano i... Su cosa? Aiuto, ho paura di quello che sta pensando. Ride, si allontana, mi schiaffeggia, che cosa? I barbieri. Non mi viene il termine. Buffy. Scusatemi. E perché i Buffy ammazzerebbero i vampiri? Quindi Buffy era una donna baffuta? Non la potremmo continuare così per tutta la sera. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Di cosa ti parlo ora? Oltre di Buffy. Dovete sapere che stasera gli Spacciaserie sarà una cioè, sarà un programma normale come tutti i programmi. Avrà un inizio e avrà una fine. Perché solitamente gli Spacciaserie finiscono quando Piero muore collassato sul mixer. Esatto. Stasera invece Roberto ci ha intimato di finire. Roberto, ascolta. No, anche. Prego. Roberto, saluta tutti. Ci ha intimato di finire puntualissimo alle 10 perché dopo c'è il programma, la demo. L'Orco Trio. Cioè la demo di questo programma e speriamo vada bene così poi può continuare. Chissà. Chissà quante ascolti. Però io spero non il giovedì, io volevo essere libero. No, ma è giusto anche che tu abbia dei limiti. No, io voglio dilungarmi. Tutti abbiamo dei limiti, Piero. Quindi ora così manda. Adesso mandiamo questo spezzone di 4 minuti, lunghissimo. Ragazzi, nel frattempo non morite. Non morite. Però Tommaso l'ha messo perché gli piaceva Automan. Automan. Ma è tipo il programma quello che sono gli ingegneri oppure un'altra cosa? No, è un'altra cosa. Attenzione. Sono impegnativi. Mannaggia. Ok. Il momento di informazione finisce abbiamo qui. Abbiamo fatto informazione. Siamo stati... È un programma completo. Abbastanza neutri, oserei dire. E adesso continuiamo. Con cosa? Abbiamo detto basta con Buffy. Abbiamo detto basta perché Buffy è stanza. E allora continuiamo con una serie di qualche anno questa fa. Questo è l'inizio della sigla. E è una serie del 1983. Sì. E il titolo... Io intanto guardo le immagini che sono veramente fantastiche. Sono bellissime. Anni 80 a questo. Poi Allora, il titolo lo faccio dire poi dopo a quello, alla serie stessa. C'è stato solamente purtroppo una stagione e solamente 13 episodi. Forse perché si capisce. Io lo sto capendo. Dal contesto. Io vi dico comunque guardate la sigla su YouTube. Scusate, ma quella era una crocetta intorno alla foto delle mine di Luna. Lo so che ti sono chiamata in causa. Ma c'è il cuoricino intorno alle mine, no? Anni 80, scusa, ma molto anni 80, sembrava Madonna in latino. La serie è americana e è una serie di fantascienza, mamma mia. È prodotta anche dalla 20th Century Fox. E adesso vi mandiamo il primo minuto della prima puntata. E che diciamo spiega. Come si chiama? No, perché lo dice lui. Ragazzi, comunque l'utente Buffy è ferratissimo. Sì, anche su questa? Anche su hai indovinato? Hai indovinato? Hai indovinato? Bravissima Buffy. Vabbè, noi ti vogliamo come ospite qui, se ci puoi venire a trovare. Noi siamo aperti. Vi facciamo sentire l'inizio. Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito! E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera e se c'è abbastanza corrente diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker. Come fai a sapere il mio? È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Mi sento fantastico. Ah, beh, se lo dici tu, allora... Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan? Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale. Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto. Nessuno è perfetto, Automan. Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10, devi pensare a me come a un 11. Ho creato un mostro. No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere. E vabbè. Allora, intanto c'era Maria Assunta che stava morendo, ribaltandosi con una sedia, ma questo loro che non ci vedono, intanto non possono. Stiamo leggendo anche il titolo della puntata selezionata, che è Violento Rock. E anche questo. E anche questo. Perché ne hanno fatti solo 13 episodi? Ne vogliamo di più. Senti, c'è più sempre. Questi erano i Crooks. I Crooks. La scena indie... Tedesca, i Crooks. No, inglese. Ah, ti sono piaciuti? Carini. Sì, meglio della torta lì di prima. Dai, anche la torta non era male. Ma. Vabbè, ma a parte parlare dei nostri gusti, come diceva la nonna. Dimmi. Ora siamo arrivati al momento in cui trasmettiamo il quarto episodio degli spacciaserie, che è diventato... Cioè, pensa... Lì gli spacciaserie ha avuto, secondo me, il... ha capito che era un grande programma. Da quel momento in poi viaggiava alla grande. Sì, secondo me sì. Guarda, io ogni volta che devo invitare un ospite che non segue il programma, io gli faccio ascoltare quella puntata lì. Perché? Dopo mi dicono, vabbè, ma se è venuto lui a fare l'ospite, poi non può venire sentiamo, più. Sentiamo. Che quindi... manderemo anche la sigla di Happy Days al momento opportuno. Cioè, appena l'avremo trovata, ma questa è un'altra storia. È un'altra triste storia. Dunque, Mario. Prima di cominciare volevo dire una cosa. Cosa? Mi hanno detto, vieni, fai l'ospite... Sai tutto di Happy Days. Sì, noi abbiamo scritto su Facebook, chi conosce qualcosa? Io ho detto, va bene, vengo. Tra l'altro abbiamo un'ultima ora. Qualche minuto fa Irene Olivia è diventata amica di Marco Barale. Io annuncerei perché il mondo lo vuole sapere. Io non faccio più la puntata, ciao. Però volevo dire che... con questa pioggia scrosciante, difficile parlare. Mi hanno detto vieni, fai l'ospite, io mi sono messo la camicia, cosa molto in aria per me, lo so. Cioè, chi mi conosce mi evita. Vestito figo. Mi sono vestito figo. It's so cool. E qui ho un maialaio, ragazzi, è la prima volta che metto piede qui dentro. Non ci dicono queste cose alla radio che poi il presidente ci picchia. È un bel posto. E non so se ci ritorno il 15. No, no, cioè devi dire che ha un certo gusto. C'è l'elemento... No? Cioè, guarda. È freddo, c'è... puzza, perché c'è puzza. Non si può aprire la finestra perché non si può aprire la finestra, se no la signora viene. Shhh, parliamo piano. Piano. Comunque io sono quell'esperto, sera, se non l'avete capito. Sera capito. Quanto mi sono divertito quel giorno. È vero. Incredibile. Sì, sì, ma ti sei riconosciuto? Anche... Sì, no. Ma ti rimani più ascoltato? No, intanto sì, mi sono riascoltato. E la cosa, secondo me... bella, uh-huh. Cioè non per vantarmi, cioè dimmela, qual era? Cioè, è che comunque sdrammatizzi, no? Quindi se uno ha paura, dice, ma io sono esperto, esatto. Ma vieni, ma, sì, fai infatti, l'ospite, non ti preoccupare, cioè, non stai tre giorni, quindi non Mario. Puzzi, se l'ho fatto io, figurati, la voglio. Può fare chiunque. Ma ti ricordi poi la discussione di quel giorno? No. Ora te la faccio sentire, c'era la discussione sul giorno inutile, il giorno in cui era cominciato Happy Days. Ah, il giorno sì, che ho non capito. Era successo niente, ascolta, ascolta. Rieccoci, rieccoci qua. Oh, shake up. Voi vi siete persi Piero che cantava sopra Elvis, cioè veramente delle scene fantastiche. Sì, abbiamo qui l'esperto di batteria. Piano piano però, che Giuseppe è la mamma. Piano piano. Shh. Ok. Dunque. Cominciamo a parlare, abbiamo detto facciamo la monografia su Happy Days, però insomma ancora qui. Innanzitutto perché l'abbiamo voluta fare? Perché c'erano 11 stagioni di cui io perlomeno conoscevo poco e niente. E allora abbiamo un ospite detto. Distratto che si distrae con questa gente che conosce, che condurrà programmi improbabili. Dunque, Mario, parlaci della storia, qual è la trama? No, di prima questo? Di... No, non puoi dircelo. No, prima della trama dire. Voglio dire un'altra cosa, cioè parliamo del contesto in cui è ambientato Happy Days. Già, bravo, bravo. Happy Days. Che ospite serio, ragazzi. Happy Days, o come mi suggeriva Marco, Froci Felici, è ambientato tra il 54 e il 64, no? E dovete sapere che l'11 aprile del 54 è stato il giorno più noioso della storia. E questo chi lo dice? Lo dice uno scienziato. Cioè, è documentato il foglio. Si, fai sentire il foglio al microfono. Bravo. Lo scienziato che dice che praticamente l'11 aprile del 54 sono successe soltanto tre cose. Le elezioni in Belgio. Ma in tutto il mondo? In tutto il mondo. Le elezioni in Belgio. In Turchia nacque un futuro accademico, che non so cosa voglia dire. In Inghilterra morì un ex calciatore. E basta. Notizione. Qui i giornali erano vuoti quel giorno. In questi anni è ambientato Happy Days. E quindi, cosa succederà in Happy Days? Se siete annoiati a guardare Happy Days da bambini, tutto ecco. Aveva una ragione. E soprattutto, chi è lo scienziato che ha perso anni della sua vita a trovare sta cazzata qui? Scusate il termine. Mi trovo completamente d'accordo con la sua analisi in sociologica. Effetti, proprio tutti i torti non ce li ha. È stato fantastico. Sì, vabbè, comunque, cazzo, io non mi ricordavo che era così inutile quel giorno. Veramente un giorno... Non era successo niente. Poi, mi spiegate cos'è il futuro accademico? Io non ho ancora capito. Mi sono veramente scervellato per cercare cos'è il futuro accademico. Cioè, uno che... Un futuro professore, uno che diventerà un accademico. Ma dove? Perché non ce lo scrive. La ricerca non lo dice. Comunque no, però, se cercate Happy Days, fate un po' di ricerche accurate su Happy Days, questa è una delle notizie che viene... Io mi ricordo quella volta, era la prima volta che venivi ospite, uh-huh. E si vedeva che ci tenevi. Avevi portato un malloppo di roba, fogli su fogli. Dove li avevi stampati? Dove li avevi stampati? Quanto li avevi pagati? Quelli? Ho pagato 1,50 €. Sì, sì. No, perché l'ho fatto dall'altri checco. Dal tricheco. Lo conosco. Conoscete il tricheco, perché non conosce il tricheco andate in via San Lorenzo, alla copisteria, non mi ricordo il nome quale, però lo conoscete, cioè si riconosce subito il tricheco. Aneddoto divertente, un giorno ero con un altro ragazzo, cioè un aneddoto che non c'entra un cazzo, sì lo so, e, però è fantastico, stavamo davanti al tricheco, voi immaginate questo omone grosso con i baffoni, e noi salutiamo lui e arrivederci, buona giornata, lui ci saluta ma c'aveva il sandalino, quello l'infradito, scivola e no, rimane attaccato alla porta. Oddio. Non volevo ridere. In quel momento non stava fumando, spero. Sì, si stava fumando, fa, no ragazzi, fum, boom, non c'era più il signor Trigeco, era a terra. Meno male non si è fatto nulla e non si era spaccato la mano alla porta. Stava per essere vittima della sindrome di Chuck o Chuck, ti ricordi? La sindrome di Chuck, sì. Ora c'ho due spezzoni in cui lo spieghi. No, dai, ma vai. Perché parliamo solo di... E soprattutto il figlio grande, Chuck, appare soltanto nelle prime due serie e poi scompare... Ha fatto la fine del Chuck. Ha fatto la fine del Chuck, come si dice, da Piero, e scompare misteriosamente. La cosa ancora più divertente è che da questo momento in poi tutte le serie TV... Sì. Da quando un personaggio scompare senza che se ne sappia qualcosa, quanta torta stai tagliando? Qua c'è si torta dice che viene spacciata. Sindrome di Chuck. Cioè, Wikipedia lo dice. Sindrome di Chuck. Sindrome di Chuck. Quando un personaggio... Allora, qualsiasi personaggio che sparisca in qualsiasi altra serie dice è stato affetto dalla sindrome di Chuck. La cosa ancora più inquietante è che né i genitori né i fratelli di Chuck... fanno, ne parlano. Mai più accenno a Chuck. Mai più accenno a Chuck. Lo odiano. Io quindi chiedo se Bruno Vespa ci sta ascoltando in questo momento. O chi l'ha visto. O chi l'ha visto. Se può fare una puntata su Chuck, per favore, un plastico. Dov'è Chuck? Ma alla fine, eccomi. Sei tu Chuck. Dopo aver bevuto, sei un po' Chuck. Buonasera. I am Ciao Chuck. Com'è andata? Come mai ti hanno tolto? I kidnapped by aliens. Da chi? Aliens. Aliens in chains. Quindi da mare assunta. Sono stato rapito dagli alieni in catena. C'è Lucio Dalla. Quando canta la catena ormai. È un po' un alieno in catena. Eh sì. Abbastanza. Dimmi tutto. Un'altra. Ma parla anche tu. Tu sei il conduttore, fai parlare sempre me. Ma no, è nelle registrazioni parlavi tu, eri egocentrico, ti mettevi lì davanti al microfono, perché io ho trovato il giorno inutile, e noi ti lasciamo parlare. Se tu mi chiami, ma era giusto. Per fare l'ospite, io ti faccio l'ospite, tu mi fai la spalla, io ti faccio la spalla. Tretti. Cazzo. Di spalla. No, vabbè, è che adesso io non sono indeciso tra mandare l'ultima cosa così ci leviamo dalle scatole il tuo pezzo, che è questo, il tuo episodio. No, facciamo così. Mandiamo un pezzo. Canzoncino. Vai, allora. E mandiamo Daniele Silvestri. Yes. E questo posso annunciarlo? Vai. Io. Il pezzo è Ma che discorsi? Tratto da? L'ultimo album che Scotch. Si chiama Scotch. S.C.H. Che vuol dire? No, C-O-T-C-H. Che vuol dire non si sa. Cioè, nel senso, lui ha scritto Scotch, ha anagrammato. E ha detto che chiunque ha un anagramma. Cioè, che può disegnare. Come si dice? Anagramma, cioè che puoi spostare le lettere. No, anagramma. Ok, vuol dire puntato in modo tale che ogni esatto. lettera. Non mi ricordo, scusate, qualcosa. L'italiano mio è veramente scemo. Io non lo volevo usare questa cosa perché non sapevo il termine. Cioè, e non me lo quando ricordo. Uno fa una cosa del genere, no? Cioè che prende uno. Sì, vabbè, ci stiamo incartando. Mi piace questa discussione allora, sul nulla. Scotch. Che è l'ultimo album di Silvestri, uscito il 29 marzo. Aspetta. È bello, l'ho ascoltato, ve lo consiglio. È bello. Intanto cerco cosa vuol dire scoccio, quello che voglio dire. Va bene. Ma che discorsi, Daniele Silvestri. Acronimo. Acronimo. Cosa acronimo? Acronimo si chiama... Si chiama... Quando tu fai un... Ma chi? Cosa? Allora, Scotch. L'ultimo album di Daniele Silvestri. Se tu entri e fai acronimo. Cioè, non se lo ma chiedo scusa, chiedo a venia me. A tutti, anche a mia madre, a mia sorella, a tutti. E va, tua madre, tu sei il tuo padre, no? A mio padre, anche ai cani. Tuo nipote. A mia nipote che c'è 2 anni e non sa nemmeno cos'è l'italiano, che non sapevo cos'era l'acronimo. Allora, cos'è l'acronimo? Ora ho capito, ho studiato. Grazie Susi che me l'ha ricordato. Allora, quando tu usi, non lo so cos'è l'acronimo, però Scotch è un acronimo di qualcos'altro. Va bene. Basta, e che però non ha, cioè nel senso, non voglio più la spalla. È un acronimo che non ha senso, cioè Daniele Silvestri l'ha acronimato. Okay? Tu trovagli il senso. E tutti chi vuole può trovargli un senso, va sul sito di danielesilvestri.it. Vuoi provarci? E può mandare. Vuoi provarci? No, ora no, perché veramente non so cosa scrivergli. E però è divertente la cosa. Sì, figo. Senza codice onorario, T. T. cerchiamo anche in chat, chi vuole fare l'acronimo di Scotch Hotel. Fate, sentitevi liberi. Vabbè, ora sentiamo invece, guarda come te l'annuncio io, vediamo se sono stato attento prima. Un pezzo di quando c'era il presidente. Esatto. Ospite. E la puntata qual era? La puntata, il presidente c'era a parlare di Natale, la puntata natalizia. Non era puntata natalizia, era la puntata sugli eroi. Ah, abbiamo c'era parlato anche il presidente la puntata natalizia? Sì, penso di sì. T'ho fregato. Però non era quella puntata lì, perché non c'era più Tommaso, era la prima puntata senza Tommaso. E dopo questo bel annuncio, non c'era più Tommaso, andiamoci a sentire questi pezzi con Leo. Vai. Ma diciamo che abbiamo fatto un salto di qualità, anzitutto nella visualizzazione della regia, qui che voglio dire, guarda com'è bello, lucido questo nuovo monitor. Sì, era vecchio perché c'era già prima. Ma però non l'avevamo mai usato. Quindi, e adesso, grazie a lui, pare nuovo. Sì, sembra una cornice di un quadro, sai, no? Sì, facendo le fotografie così mandiamo. Sì, mandiamo le fotografie, noi guardiamo le fotografie e voi ascoltate, aspettate Cinemando. Comunque, dicevamo? Comunque, noi qui siamo a fare... No. Non è un corriere, è un corridore. Okay, ero stato specifico io. Scusate. Solo che a un certo punto viene ritrovato con della droga addosso. Era la sua? Sì, però non era tantissimo, era giusto per consumo personale. La droga fa male, amici a casa, bambini all'ascolto. Non prendete la droga. Non prendete la droga. Perché poi finite con dei superpoteri. Esatto. Adesso non c'è, è questo l'insegnamento bambino, che volevamo dare. No. Se tu dici al bimbo, no? Bimbo, non drogarti che poi ti vengono i superpoteri. Il bimbo è la prima cosa che fa anche a 10 anni. Si fa la perina, eh? Ma secondo te non è la peretta, mia. L'ho detto perina. Io. È il mio cococò che ha detto queste cose. Poi la Francia non l'ha rovinato, eh? Sì. Marsiglia è una piccola Napoli, so. Cioè, malavitosissima. E io non ci sono e mai quindi stato. Chissà come torna. Se me torna con i capelli lunghi... Con la pistola come te, che sei venuto in radio con la pistola. Io sono venuto con una pistola fantastica, ragazzi. E l'orecchino, la bandana o il bandana, come si dice? La bandana. Il bandana che è un amico tuo. Ho conosciuto il bandana. Guarda, secondo me il bandana comunque è figo. Dopo er patata, il bandana. Bello, chiamatemi il bandana. Va bene, ti chiameremo il bandana. Però a parte questo, ora ti mando un pezzo tratto dalla puntata su Glee, in cui si parla di gente bella. Il figo. Quindi abbiamo altri stereotipi. Abbiamo... Allora, il ragazzo sulla sedia a rotelle è la superstar in compresa, quella afroamericana. Poi altra, il figo, perché ci vuole il figo. Aspetta, no. Il figo arriva dopo, perché questa è la squadra dei perdenti, degli sfigati. Poi arriva il figo. Poi la squadra dei fighi sono Finn, innanzitutto, grandissimo figo. Non avete visto la faccia? Un padre spassionato. Sì, era goduriosa, probabilmente dice grandissimo figo. Certo, scusate. Poi, quarterback della squadra di football. Più stereotipo di così si muore. Fidanzato, scommetto che non ve lo immaginerete mai, con il capitano delle cheerleader, biondissima ragazza, bellissima. Anche questo altro stereotipo usato e abusato. Tra l'altro questa povera ragazza biondissima, capitano delle... Ma povera ragazza, questo non l'avevo visto così, io, mi sembra un po' esagerato. Mi trattano male. No, ma si scherza, su. Questa ragazza che si chiama Queen, non l'abbiamo ancora detto. Regina? Sì, però non si scrive come regina. Si scrive Queen come Finn, il fidanzato. Si scrivono allo stesso modo. E questa Queen è anche la presidentessa del club della castità. Altro stereotipo, però questo non è spoiler, si vede già nella prima puntata, lei rimane incinta. Non del proprio ragazzo, anche questo non è spoiler, non vi preoccupate, ma del migliore amico del suo ragazzo, Puck, altro grandissimo figo, sempre della squadra. Ti piacciono tutti, però, diciamo. No, ma non è un parere, è per dire che non è uno sfigato. Ah, ok. E quindi c'è questo Puck, altro giocatore di football. Sì, però lui lo stereotipo del maschio un po' cattivo, un po' burbero, no? Sì, un po' più figo, diciamo, degli altri. Cioè, io non lo so, ma con chi faccio la trasmissione? Cioè, sa solo dire figo, io non lo so. Qua la gente vuole sapere, cioè, poi magari abbiamo un pubblico maschile, dei fighi non gliene importa poi tantissimo. No, vabbè, diciamo sì, è il più virile, diciamo, della situazione. Okay. Che diciamo che verrà a conoscere più profondamente tutte le ragazze della serie, ma questo non è spoiler perché ve lo immaginavate. la ragazza era un po' impacciata. Da, poverina. Poverina, sì, mi dispiace. Cioè, nel senso, non era come te che... Sai, no, non sto dicendo che io ero meglio, sto dicendo che era un po' impacciata. Appunto, che perché... No, meglio di me, è semplicissimo. Ecco. Ma più che altro cos'è Glee? Che serie TV è? Mai sentito la vita mia? TV... No, come no? È famosissima, è una di quelle che va di più. Questo. Famosissimo, Piero, per te è famosissimo. No, ma veramente, ha vinto un sacco di premi. Dove? Ti giuro che l'ho visto, sono 2 anni che va in onda. E... Che fanno in Glee? E cantano sostanzialmente. E basta, è un musical. Sì, no, non è proprio un musical, però c'è gente che viene dal musical. Che viene, che va. E che fanno in pratica è un mix tra una storia all'interno collegiale, la solita, sai, quelle del collegio, Anna Montana, queste cose qua, no? Solo che... Anna Montana che poi è veramente... Non l'ho visto in realtà. Lei nella vita reale penso sia una di quelle, posso dirlo? Cioè una ragazza, cioè... Ecco, bravo, dillo così. Sì, non è lei che è stata trovata con le foto zozze con gli amici, quello che fanno a Montana. Poi c'è lo scandalo perché lei è della Disney, cioè non è che lei è della Disney. L'ha comprata la Disney. La paga la Disney. E uno ci aspetta un po' di... Di morigerezza. Di tranquillità. Insomma, Glee, insomma, è quello più il musical, cioè più cantano. Giustamente dalla chat ci sono, che cagata Anna Montana. Non l'ho mai visto, però mi fido nel caso. Adesso io manderei un pezzo di Leo in cui descrive la camionetta degli avvocati. L'ha fatto anche la puntata scorsa, quindi si è ripetuto. Questa l'ha fatta quando parlavamo di non mi ricordo più cosa, nell'ottava puntata in cui parlavamo di famiglia, di single father. Lui ha parlato anche... Di questa camionetta di avvocati, sentiamo. Questa cosa. Che poverino la sopporta. Robin. Robin. E Robin utilizza il John Corn come... Non mi aspettavo Batman, in realtà. Lo studio di avvocati, Batman e Robin. Farebbe c'è un'intuizione. E lei c'è il fatto segna Robin. Tra l'altro, su questa cosa c'è uno spin-off bellissimo che ti dico adesso, che è dell'Ordine degli Avvocati, che era la camionetta, non so se l'hai mai vista, chi è qua a Pisa ha visto almeno una volta nella vita il pullman dell'Ordine degli Avvocati, che è tipo la Batmobile. Sì? Sì, praticamente, quando ancora ero un ragazzo... Te non l'ho mai visto, Leo. Come no? Quando ancora ero un ragazzo e andavo a lezione all'università... Vabbè, e vivevo da un'altra parte, anni fa, mi capitava tutte le mattine di incontrare questo pullman con tutti quanti gli avvocati vestiti allo stesso modo, tutti quanti con la stessa valigia, e ci mancava solamente la siglina di Batman, no? Con una cosa tipo tutti presso la Batmobile. Sì, esatto. Cioè, questo pullman grigio con scritta blu Ordine degli Avvocati di Pisa, cioè addirittura sì, ma li andavano raggiungendo casa per detto, casa. Sì, beh, un po' inquietante. Sì, erano tipo gli idraulici, no? C'è un guasto, una tubatura, e chiami gli idraulici che ti risolvono tutto quanto. Okay, no, mia moglie vuole divorziare, e passano l'Ordine degli Avvocati e salvano la situazione. O la camionetta del coso dell'Asonil, non lo so. Comunque io è 5 anni che sono a Pisa e non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto la camionetta degli avvocati. Però lui è talmente convinto di averla vista. Quando che l'ha fatta questa puntata? Questa era tipo febbraio, gennaio-febbraio. Perché è stato un antesignano di quello che è successo poi a Milano. Cioè? Batman e Robin, no? Ah, Moratti. Sul figlio del sindaco Moratti, che è stato trovato in possesso di una casa ristrutturata in maniera abusiva e ristrutturata tale e quale al cosino di Batman. Sì. Stasera non c'ho le parole al rifugio. Ce la puoi fare? Di Batman. Ti faccio da spalla se vuoi. Bravo, Batman. Bravo, veramente bravo. Guarda, ora io per complimentarmi con un te. Un pezzo, l'ultimo di Elio, tra l'altro. L'ultimo? Pensiero stupesce. Colonna sonora di... featuring Nicola Vitiello, che non so chi sia. Nicola Vitiello, se non mi sbaglio, è un comico in gamba. Ora cerchiamo e poi vi diciamo. Comunque, Spensiero stupesce, colonna sonora di Boris. Ora, c'è anche della pubblicità nel mezzo, l'ho voluta togliere. Non lo facciamo noi. No, si può, un pezzo di Elio non si tocca, non si può, nemmeno se lui parla di pesci, come in questo caso. Pensiero stupesce. Videocassetta. Pensiero stupesce. Ti è piaciuto? Bellissimo. Ma Elio mi fa sempre morire.

Ma infatti siamo pochi eletti ad avere questo. O pochi inetti, come qualcuno diceva prima. Ma in cosa consiste questa cognata tazza? Questa è una, non è una tazza come le altre. Questa è una tazza virtuale. Mm-hmm. È ancora meglio. Capito. Quindi l'utilizzo che te ne fai è inutile. Cioè, No, assolutamente no. Puoi stamparla e metterla su una maglia. Oh, beh, puoi una fare, maglia. Ecco, fare dei fotomontaggi con te che la usi. Mi sembra giusto, cioè nel senso è una tazza virtuale. Hai fatto che però il fotomontaggio con te che usi la tazza? Non ancora mai. Lo farai? Certo. Guarda che ti faccio la maglietta. Già una te l'ho mandata, no? Nuovo, no, basta. No, però quella del fotomontaggio è un'idea carina. Un'idea carina, poi puoi metterla come sfondo del tuo desktop, provocandoti gli insulti dei colleghi al lavoro. Ma quali insulti? La curiosità dei colleghi al lavoro. Perché, aspetta, mi interessa questa cosa. Perché ti insultano i colleghi? No, vabbè. No. Ma che è quella cagata, no? Eh? Dicono, cos'è quella cagata oppure ti insultano? No. Dicono con curiosità, ma cos'è questo simbolo? Io pubblicizzo, ovviamente. Brava. Però nessuno ci ascolta, mi sa, perché... Da Torino, sì, non devi mi pare essere che... più incisiva. La mia pubblicità. Che battutone, poi questo è veramente un po' scemo. L'hanno capita solo chi conosce di poi. Io avevo evitato di fare queste battute, invece tu ci casi. No, ma è scappata, non volevo farla. Vabbè. Comunque. E niente, poi mi sa basta, perché a parte usarla come immagine sulla tua bacheca di Facebook, penso che abbiamo esaurito gli utilizzi, però... È più la vittoria morale, diciamo. E poi comunque, come dire, il design di questa tazza... È bellissimo. Cazzo di cappello a Tommaso. Il creatore l'ha della fatto Tommaso. Sì, sì. Io non l'ho ancora vista, mi credi? Cioè, non ma sono... come? Scusami. Ah, no, perché tu non sei facebookiano. Aspetta, per no, Facebook ce l'ho in qualche modo, però non... Guarda, hai presente Gigi Giuseppe so Paglieri? Sì, siete tutte e due. Esatto, alla fine. Sì. Però non l'ho allora... ancora vista nemmeno lì. No, aspetta, non è questa. Se non ti Vabbè, immagina questa con questa. Ah, ho visto la tazza. Okay. Cioè, ho avuto una visione della tazza. E ora si è illuminato. La visione della tazza da vicino. La tazza. Che per chi ci ascolta da due secondi e non sa di cosa stiamo parlando, sembra che sia al bagno. E quindi vabbè, ho visto la tazza. In quel caso sarebbe comunque, nel senso, un buon consiglio. Ci stiamo andando a cagare. Nel senso, la digestione è importante. Sono momenti della giornata sacri, certo, che bisogna tutelare. Il medico che è lei ce lo raccomanda. Certo, io consiglio di rispettare. Grazie. Rispettate la tazza. Allora, andate davanti alla tazza e fate respect. Ti ringraziamo, Nicole, della chiacchierata. E grazie a voi. Siamo... una buona serata. Sì, grazie, sì. Grazie. Grazie dell'ascolto e continua a seguirci. Va benissimo. Sì. Solo saluto che... tutti. Ciao. L'unico problema. Il problema è che mancano 3 minuti alle 10. E quindi io manderei un pezzo. E quindi noi mandiamo un pezzo tutti. Che dura meno di 3 minuti o comunque circa. Ora lo trovo. E vi salutiamo prima del pezzo. E sì, perché guarda, dopo c'è Orco Trio. C'ho un'anteprima. Un pezzone. Bellissimo. Quindi salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ringraziamo dell'ascolto. Sì. Vi ricordiamo che giovedì prossimo c'è... di nuovo monoserie, gli spacciaserie, sabato c'è la festa. Sabato c'è la festa al PN, ragazzi, dovete assolutamente esserci, dalle 11 in poi, vedetevi il derby, fate quello che vi pare, ma alle 11 tutti al PN a spaccare porta il mondo, nuova, al Porta Nuova, la bicicletta conquisterà Pisa, questo è lo slogan, sì, ne sono festa sicuro. Black and white, cioè se potete vestitevi bianco nero. O nero, o sarà bianco e nero, una figata pazzesca! Basta, grazie. Non venite con la maglia della Juventus, poi per il resto potete variare come volete. E ora il pezzo di Eddie Vedder. Ma scusami, me lo rovini così. Va annunciato. Eddie Vedder torna dopo tanto tempo con un brano singolo fatto soltanto da lui. Grande, che ormai è uguale a Hyper Jam, che hanno sfondato la malinconia. L'album, se non sbaglio, ora non me lo ricordo, però si chiama Ukulele Songs, se non sbaglio. Sì, perché c'è lui che suona l'ukulele in questo album. L'album esce a maggio. E per il momento è uscito soltanto questo singolo che si chiama Longing to Belong. Che okay. Vuol dire? Dimmelo. Non lo so, è tardi, Piero. Chiamiamo Maria Assunta. No, scherzo. Allora, buona serata a tutti. Grazie per averci ascoltato. Grazie.